Le ombre parlano e hanno in ombra le parole che controllano o controllano, ma in ombra le parole. Parlo male. Parlo male e poi mi pento, mamma. Parlo male di un mio amico e poi sto male. Parlo di chi non ha niente col cuore e poi peggio lo tradisco io come un Giuda infame. Parlo male per stare bene, sono un paradosso cane. Profumo soldi anche senza una lira. È il mondo che fa questo, che può svoltare da un momento all'altro, ma senza lei fa un male cane. Non dico il suo nome e lo camuffo, poi lo vedo dentro a ogni bisogno. Sono figo ma anche uno che è un po' buffo, ma non abbastanza per morire stupido, capisco troppo e poi sto male. E non c'è droga provata che sia riuscita a cambiare la situazione. Non so cos'è una stella, ma sto solo uguale, solo, ma solo come un cane. Non mi ama neanche la notte, dove vorrei dormire, e non capisco perché il denaro è un limite e lo Stato un regime che la gente continua a seguire. Sono autarchico, madre. Se c'è una regola non vorrei saperla o saperlo quando il mondo è a favore e non averlo prima, come una croce. E anche se vengo dopo mille altri e prima di coglioni, madre, sei l'unica che vorrei salvare. Ho perso la prima mia canzone, ma la porta tutto nel cuore. E di certo non perdono te, e non perdono neanche me, neanche mio padre. Vorrei morire, morire tutti quanti, il mondo intero cane. Vorrei uccidere tutti quanti, non bomba atomica nucleare, no. Per finire tutte le guerre, no alle guerre, non ci sarebbero più guerre. Uccidere tutti quanti e no alle guerre. Mi chiedono cosa sia un esperimento, ma il vero esperimento sarebbe vedere se essere felici, se si può farlo anche senza soldi. A molte volte sembra si tratti solo di esperimenti di denaro, mentre io vorrei sogni più giovani, più stupendi e spensierati, senza dover credere negli orchi e poi doverli materializzare.